Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, come vi avevo annunciato ci troviamo dunque oggi a Torino con tanti amici di Radio 24. Ringrazio Stefano Gallerini che mi ha appena dato la linea e ringrazio tutti voi come sempre per l'attenzione. È probabile che molti di voi in realtà non mi stiano ascoltando perché sono proprio qui a Torino a visitare questo appuntamento diventato ormai quasi un obbligo per gli appassionati di libri, ma anche per i protagonisti del settore, quindi per gli editori e per i librai. Di questo parleremo in questa trasmissione, ma sentiamo innanzitutto alcune impressioni che ha raccolto Valeria Mussini proprio fra gli ascoltatori per capire con che umore, che spirito vengono qui alla Fiera del Libro di Torino. La valorizzazione di tutti i piccoli editori, di tutti quegli scrittori e quegli operatori della comunicazione che hanno difficoltà a poter avere una vetrina così importante, così prestigiosa come una fiera internazionale del libro. Purtroppo la gente viene qui e compra dei grandi editori, poi i librai di Torino per 2 o 3 mesi non vendono più libri. Siamo venuti più che altro per lei, per la bimba, e quindi di trovare dei libri per lei, così stimoli per lei. Io sono un partigiano del libro, per cui per me è magia tutto ciò, e mi sembra che nonostante si dica la crisi che c'è ed è drammatica, però la gente viene perché la cultura è importante, preziosa. Ho visto adesso il programma, c'è un mare di roba bellissima, oggi c'è Levi di Montalcino, poi ci sono anche altri importanti intellettuali, vediamo cosa riusciamo a fare. È la prima volta che vengo, è molto interessante, stiamo vedendo di trovare qualcosa di nuovo, visto che nelle grosse, stavo parlando con un amico, visto che nelle grosse catene ormai c'è troppa roba omologata, no? Si viene a scoprire qualcosa di piccolo. Avete sentito, vengono con tanti diversi sentimenti, vengono neofiti, vengono invece aficionados a questo appuntamento, e avete sentito questa espressione partigiano del libro, quasi che usare il libro fosse diventato l'appartenenza a una setta un po' misteriosa o che addirittura deve correre dei pericoli e dei rischi. E vengono anche tutti i partecipanti a questo salone del libro per immergersi in una produzione libraria che passa in Italia certamente dai grandi marchi ma anche da tanti piccoli editori ed è frammentata in una distribuzione e in una vendita che diventa sempre più complicata, perché una volta il libro si comprava dal libraio e adesso il libro si compra da tanti librai nelle grandi catene e anche fuori dalle librerie, per esempio su internet, quindi cambia completamente il rapporto anche con il libraio. Sentiamo anche su questo le opinioni che ha raccolto Valeria Mussini. Adesso ultimamente vado su siti internet e guardo le recensioni, perché è sempre più difficile trovare il buon librario di una volta che legge i libri e sa consigliare in base alla persona che trova di fronte, perché purtroppo a volte si trovano i commessi, queste persone che magari mi sanno indicare dove si trova il libro della tale casa editrice ma non lo conoscono e non mi sanno venire incontro in base alle mie esigenze. Purtroppo buoni librai si cominciano a trovare a fatica perché stanno un po' il vecchio libraio, la vecchia figura di libraio sta un po' scomparendo. Mi piace molto pensare ancora al libraio, perché purtroppo nella mia città è mancato da poco una figura centrale proprio delle librerie, consigliava tutti su tutto e quello che ognuno cercava lì lo trovava, era più umano che non internet, ecco, perché internet lo potrebbe sostituire benissimo, però c'è anche il rapporto umano che bisogna coltivare sempre, secondo me. Navigo in internet e quindi alcune informazioni le recupero via internet, no, anche perché praticamente è quasi sparito, sono quasi tutti franchising, di umano resta veramente poco. Avete sentito la reazione dei lettori. Allora abbiamo qui con noi il presidente dei librai italiani, Paolo Pisanti, che è un libraio lui stesso a Napoli, ha una storica libreria e altre ne sta aprendo. Sentiamo come reagisce a queste osservazioni degli ospiti di Torino. Direi in modo trionfale. Non esageriamo. È l'elogio del libraio, perché quando si parla di commessi certamente si parla di cose che non riguardano il libraio indipendente. Quando si ha nostalgia del povero libraio che non c'è più, certamente vuole in qualche modo elogiare la nostra attività. Credo che internet sia un'alternativa come tanti altri mercati che si aprono nella vendita di libri. Devo dirle che oggi abbiamo librai competenti, li stiamo addirittura formando in una scuola di librai che abbiamo ad Orvieto. Siamo convinti che il ruolo di libraio indipendente o del territorio, come preferiamo che abbia, è fondamentale, perché riesce a dare le informazioni giuste, perché lui libri li legge, li consiglia e sa che cosa consigliare. Nella vostra esperienza, che profilo vedete? Come sta cambiando il lettore italiano? È più giovane, è più anziano, è più saggista, è più letterario, è più classicista? Ma direi il lettore è più o meno lo stesso. Purtroppo abbiamo ancora questa grossa sacca di non lettori che vorrebbero raggiungere e che non riusciamo a raggiungere. Speriamo di poter fare iniziative che in qualche modo ci riescono. Dovremmo partire, secondo me, dalla scuola. E che rapporto avete con gli editori? Perché in fondo gli editori hanno l'interesse a saltare la catena dei librai e andare a distribuire i loro libri in altro modo, in altri canali. Ma che gli editori distribuiscono in altri canali i libri può essere poco interessante. Il problema è quello di stabilire delle regole che ci permetta di competere su un mercato che può essere aggressivo, ma che non lo deve essere, perché se in Europa abbiamo una uniformità di attività proprio perché ci sono delle leggi che garantiscono la competizione comune, credo che sia utile e indispensabile che questa competizione possa essere permessa anche in Italia. Competizione in che termini, quindi? Ma competizione direi nei termini delle regole. Oggi abbiamo un prezzo fisso con promozioni libere, con uno sconto massimo del 15% e promozioni libere. Beh, forse sarebbe meglio andare al prezzo libero, che certamente non è una soluzione ai problemi, sarebbe un aggravarsi dei problemi. Abbiamo visto in Inghilterra che cosa è successo. Chiediamo che forse, se riusciamo a dare delle regole al nostro mercato, quello di regolamentare le promozioni, quello di regolamentare anche internet, che certamente sta crescendo ma non è ancora cresciuto nelle misure giuste, potrebbe darci nel futuro delle migliori prospettive di vivere sul mercato. Ecco, ma si dice spesso che tante librerie chiudono, è vero? C'è una moria così forte o ci sono anche librerie che nascono? Ma diciamo che il conteggio è più o meno pari, perché ce ne sono tante che muoiono e tante che nascono, tante che si rinnovano e che riescono in qualche modo a realizzare poi le proprie attività. Certo, il libraio in questo momento del territorio sta subendo qualche problema. Credo che è necessario trovare delle soluzioni. Ci abbiamo provato proprio qui a Torino, speriamo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si riesca a portare al governo un'idea per poter regolamentare le nostre vendite. Faccio il mestiere da libraio, qual è il libro che si vende di più in questo momento a Napoli? Ma guardi, io Napoli e continua a vendersi purtroppo il Gomorra, che ormai è un long seller. Devo dire che in questa classifica dei libri venduti è abbastanza significativo che ci siano sette long seller, nel senso che di novità ce ne sono state poche. Abbiamo avuto il Faletti che è arrivato, però anche il Faletti purtroppo, devo dire, lo dico in pubblico, ha avuto un po' dilettantesca distribuzione, è stato distribuito prima in alcune parti e in altre parti non è proprio arrivato. Questa è una cosa gravissima, è stato venduto con lo sconto su internet prima che arrivasse in libreria. Beh, insomma, facciamoci sempre più male. Va bene, questo poi ne parleremo con gli editori. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Avete capito che una delle caratteristiche principali di questo appuntamento di Torino è il fatto che tutti i librai e tutti gli editori si possono trovare, e quindi il lettore ha la possibilità di conoscere una produzione che normalmente sfugge, anche perché i giornali non riescono naturalmente a riferire tutte le produzioni che ci sono ogni anno. Come sapete, in Italia si legge poco ma si stampa molto, e allora uno degli appuntamenti importanti è la possibilità di conoscere i piccoli editori, quelli proprio piccoli che magari producono dei titoli molto interessanti ma che sono anche meno noti. Ce ne sono tantissimi, e allora, dovendo scegliere, io ho adottato un criterio, quello di prendere in fondo le più giovani case editrici che sono presenti qui a Torino, e guarda caso sono due case editrici del sud, una di Palermo e una di Napoli. Sono delle case editrici che hanno anche una storia particolare. Per esempio, partiamo da quella di Palermo, casa editrice 18 e 30 edizioni. Sapete perché si chiama così? Perché è stata fondata da due amici, Giorgio D'Amato e Roberta Lepri, i quali fanno un altro lavoro nella loro vita e alle 18:30 smettono i panni, direbbe Machiavelli, di manager in un'azienda che si occupa di commercio di pesce, mi pare, e di assicuratrice, e cominciano a fare gli editori. Fanno gli editori e producono dei libri in tre serie che hanno la caratteristica per adesso di avere 16 pagine, e ne parliamo adesso con Roberta Lepri. L'altra casa editrice invece è quella di Napoli, si chiama Ad Est dell'Equatore, è qui rappresentata da Luigi Pingitore, e questa casa editrice è stata fondata da due fratelli che si chiamano Ciro e Giorgio, mi pare, e Marco. Ed sono due fratelli i quali vivono a Ponticelli, quindi in una zona particolarmente degradata, come voi sapete, di Napoli, che hanno un po' sentito l'odore della carta nella loro famiglia e che hanno dato vita a questa iniziativa proprio per cercare di dimostrare che anche in una città e in un'area particolarmente degradata si possa dare vita a dei progetti innovativi. Allora, sentiamo lo spirito con il quale si sono presentati qui a Napoli. Chi comincia? Roberta Lepri. Buonasera a tutti, buongiorno, anzi, sono Roberta Lepri, 1830 Edizioni. Come appunto è stato introdotto, noi siamo una piccola casa editrice che è nata dall'esigenza di dare spazio ad autori che altrimenti non avrebbero avuto uno spazio. Io e il mio socio Giorgio D'Amato ci siamo conosciuti perché ci siamo incontrati a dei premi letterari. In questi premi è evidente come esista una grande qualità nella letteratura, una grande, grande riserva di parole che non viene però sfruttata, perché arrivare alle grandi case editrici è estremamente difficile. Ci siamo organizzati in questo senso, abbiamo queste piccole pubblicazioni che hanno un'altissima qualità, curiamo molto molto sia la veste grafica delle copertine, lo stile, a volte ci è voluto quasi un anno per arrivare a pubblicare un racconto di 16 pagine. Questo però ci ha dato la possibilità di arrivare a scrittori che sono veramente eccezionali, che sono degli sconosciuti ma che emergeranno secondo noi. Bene, invece l'esperienza di Napoli, di Ciro e Marco Marino, cosa ci dice? Risponde Luigi Pingitore. Ci dice innanzitutto che, come dire, è vero, sono due fratelli giovani, hanno messo in piedi questa casa editrice un anno fa a Ponticelli, sul retro della sartoria della loro madre, che il padre era tipografo, per cui effettivamente hanno respirato questo odore di carta, ma che fondamentalmente questa casa editrice non ha granché di piccolo nelle ambizioni, nella struttura, perché siamo nati immediatamente con la voglia di stare lì sul mercato, distribuzione nazionale, un rifiuto a priori dell'editoria a pagamento, che è il grande cancro che mina l'industria letteraria italiana e campana in particolar modo, e quindi abbiamo dato vita a un progetto del tutto folle, perché fare libri in Italia in qualche modo è come andare a vendere ghiaccio agli eschimesi, vista la percentuale bassissima di lettori di questo paese e soprattutto vista la percentuale altissima di gente che scrive, un rapporto che altera il mercato in maniera incredibile. Però abbiamo questa passione, crediamo nella letteratura, crediamo nella bellezza, che sono le uniche due coordinate che dovrebbero ispirare ogni progetto legato all'arte. Abbiamo dato vita a questa casa editrice un anno fa, oggi contiamo due collane, I Virus, che è la collana di narrativa in cui sono presenti 7 titoli, 2 li abbiamo presentati qui alla fiera, sono andati molto ma molto bene, oggi super dotati. Una seconda collana che si chiama Liquide, che io curo, una collana che è di scrittura non narrativa ma non necessariamente poetica, e dopo l'estate ci lanceremo nel mercato nazionale e internazionale a piedi uniti, in tickle. Qual è la risposta dei lettori? Cosa dicono i torinesi, quelli che sono a Torino? Diciamo, noi abbiamo avuto un'accoglienza veramente incredibile. Uno dei nostri titoli è andato esaurito ieri e abbiamo avuto una presentazione allo spazio incubatore in cui veramente le persone non entravano nella sala, si sono dovute accomodare sedute per terra perché non bastavano le sedie. Quindi per noi è stata sicuramente un'esperienza positiva. A destra dell'Equatore? È un'esperienza altrettanto e altamente positiva, nel senso che credo che sia una casa editrice che abbia venduto di più in questo momento dai dati che mi hanno dato nell'incubatore. Oggi abbiamo fatto la seconda conferenza anche qui, spazio del tutto esaurito, gente in piedi. Certo, ti fa pensare, perché dici, perché alla Fiera di Torino c'è tanta gente, si avvicina ai tuoi libri, in Italia legge così poca gente. Vabbè, non è questo il caso. Bisogna moltiplicare le opportunità. Ringraziamo Roberta Lepri e Luigi Pingitore. Grazie. Vi ricordo che l'appuntamento di quest'anno è dedicato all'Egitto. C'è un paese ospite ogni anno, quest'anno è l'Egitto, e quindi vi ricordo rapidamente un paio di titoli che mi sembra giusto sottolineare proprio per onorare questo paese. Il primo è quello di Ala al-Asbani, di cui Feltrinelli ha appena pubblicato Se non fossi egiziano, 222 pagine, 16 euro, tradotto da Claudia La Barbera. Lui è uno dei più noti scrittori egiziani del 57, medico all'inizio della sua carriera per poter permettersi di fare poi lo scrittore, animatore di movimenti per i diritti civili, celebre per un romanzo che ha avuto un gran successo anche in Italia, Palazzo Yacoubian. Questa che presenta adesso Feltrinelli è una serie di 17 novelle, una lunga, I quaderni di Issam Abd al-Ati, e gli altri 16 assai più brevi. Vale l'acquisto del libro, secondo me, già la prefazione di questo libro, nel quale in poche pagine l'autore denuncia quello che è il motivo per il quale viene attaccato dagli integralisti, cioè affronta il tema della libertà della creazione artistica e il tema dell'assurdità di voler assolutamente colpevolizzare sempre personaggi e storie fantastiche. E in alcune pagine lo scrittore è molto efficace nel dimostrare l'assurdità di questa tesi con delle posizioni che sono comuni a tutte le persone ragionevoli. Parla di confusione tra immaginazione e realtà e parla di una maledizione che ha colpito il romanzo I quaderni di Sam Abdalati, la cui pubblicazione era stata vietata per molti anni. Anzi, è divertente in questo libro leggere come sono pubblicati i libri in Egitto. Bisogna andare in una commissione, farsi raccomandare che la cosa è migliore, oppure sperare che il burocrate di turno metta il timbro e autorizzi la pubblicazione. E questo giustifica il fatto che poi alla fine l'autore si lascia scappare che gli egiziani nient'altro che servi sono. Ecco che cosa sono gli egiziani, quindi, come vedete, dei giudizi molto duri che giustificano o spiegano la critica alla quale è stato sottoposto nel suo paese. Una presa di posizione molto dura sull'ambiente anche politico, che spiega questi attacchi, condito però con una capacità letteraria molto forte. Un classico della letteratura egiziana, che è stato anche premiato col premio Nobel nel 1988, attaccato anche lui molte volte dagli integralisti, che addirittura attentarono alla sua vita, è Naguib Mahfouz, di cui ritorna Karnak Caffè, pubblicato da Newton Compton, 126 pagine, 9,90 euro, tradotto da Chiara Batteroni. Questo romanzo breve di questo autore, che morì nel 2006, ambientato in un piccolo caffè che diventa il microcosmo della rivoluzione anche politica che si svolge in Egitto nel periodo fra il 67 e il 73, quindi fra la sconfitta della guerra del Kippur e l'effimera vittoria, o considerata tale, del 1973, e questo diventa appunto il tema del libro, diventa sostanzialmente la chiave per capire come si sta modificando il suo paese. Un libro insolito che ci riporta alla terra dei faraoni invece, L'antico Egitto e la musica, di Maurizio Agro, che è musicista, docente all'Università dell'Aquila. Il libro è pubblicato da Nanke, 14 euro, 112 pagine, un libro che ci permette di capire anche molte immagini le quali dell'antico Egitto, immagini nelle quali troviamo scene di danza, di musica, che erano centrali nella civiltà egiziana. La musica, dice l'autore, contribuiva a scandire il tempo del lavoro, il tempo della preghiera, il tempo della guerra, e allietava i momenti privati. E poi naturalmente c'è una parte finale molto suggestiva e molto attuale, che dimostra e ricorda l'influenza che la musica e la civiltà egiziana ha avuto sulla musica, a partire dal sommo Mozart fino a Rossini col Mosè in Egitto e naturalmente all'Aida di Giuseppe Verdi, che presto rivedremo alla Scala. E a questo punto il confettino. Mi piacciono molto i libri che hanno una base scientifica, che li aiutano ad arrivare a scoprire concetti complessi in maniera semplice ma non semplificata. E lui è appassionato a tutto questo genere letterario, fantasy, Lucia Troisi, si è letto tutti gli Harry Potter. Avventura, poi anche qualcosa di curiosità, ha comprato un libro di Voyager. È capace di leggere Il piccolo principe, è capace di rileggersi i brani della Divina Commedia, piccoli romanzi dalla Anna Lavatelli, altri scrittori che trattano cose del quotidiano o degli argomenti che loro sentono molto vicini. Se posso, libri un pochino, come dire, già impegnati, ma compatibilmente con la loro età. Cosa aggiungere? Speriamo che questa passione per i libri rimanga, che i genitori non li opprimano facendo leggere cose troppo difficili, e che i bambini, anche i bambini, possano scoprire anche da soli il gusto della lettura. E con questo ringrazio Vittoria Mussini e Filippo Aureggi in regia. Vi do appuntamento a domenica prossima, vi auguro buona domenica e buona settimana. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it.